Senti, durante l'occupazione delle fabbriche, tu eri a Parigi? Durante l'occupazione delle fabbriche ero a Parigi come corrispondente. Corrispondente. No, no, non ancora, no, no, non no, ancora. no, no. Ah, Durante l'occupazione delle fabbriche ero al Secolo a Milano. Ah, al Secolo. Io sono andato a Parigi come corrispondente dell'Avanti nell'aprile del 1921 e sono andato all'Avanti la prima sera. Il 21 marzo, la sera dell'attentato da Diana, con Milano che ribolliva di grida a morte i rossi, a morte gli anarchici, a morte i socialisti, e fu la prima sera che io andai all'Avanti. Al Secolo non ti ricordi chi ha fatto i servizi sull'occupazione delle fabbriche? No, proprio non saprei. Ma tu quel periodo come l'hai vissuto, dell'occupazione delle fabbriche? Veramente adesso non ti saprei dire, dovrei andare a vedere, ma certamente in quel momento i miei interessi, io ero al Secolo, facevo dei servizi all'estero, in Cecoslovacca, andai in Georgia, all'epoca in cui alla conferenza della pace a Parigi si parlava di dare all'Italia la Georgia, un bel regalo, come vedi. Lo raccontai a Stalin e gli dissi: ma lei è mancato poco che non fosse italiano, perché nel 1920 la conferenza di Parigi voleva dare all'Italia la Georgia come compenso di Smirne, che aveva promesso e non poteva dare. E lui ci rise sopra molto di gusto.